Nato a Roma da genitori patrizi, divenne prefetto della città, ma presto rinunciò alla carica, trasformò la casa di famiglia sul Colle Celio in un monastero e vi prese l'abito. Poco dopo fu mandato a Costantinopoli come nunzio pontificio e al suo ritorno fu eletto papa nel 590. Quel che riuscì a fare nei 14 anni del suo pontificato fa di lui una delle più eminenti figure della storia del mondo. La sua opera più importante fu l'invio in Inghilterra di una missione composta di circa 40 dei suoi monaci del Colle Celio e capeggiata da Sant'Agostino. Essa fu importante non solo per la conversione dell'Inghilterra, ma anche per la diffusione della regola benedettina tra i nuovi popoli dell'Europa occidentale. Gregorio si adoperò anche per la conversione dei Longobardi d'Italia e dei Visigoti di Spagna, sostenne i diritti della sede romana contro Costantinopoli, abbellì la liturgia nelle formule e nel canto, difese e favorì il monachesimo ed aiutò i poveri di Roma, di Ravenna e delle proprie terre in Sicilia. Fu inoltre uno scrittore prolifico. I suoi dialoghi, che includono l'unica biografia rimastaci di San Benedetto e il suo Liber Regula Pastoralis, sono classici della letteratura ascetica. Il secondo, in effetti, fu tradotto in inglese da Re Alfredo in persona. Nell'arte, Gregorio Magno è raffigurato in abiti pontificali e porta una doppia croce. Una colomba è appollaiata sulla sua spalla o si libra accanto al suo orecchio. Il Papa può essere intento a scrivere o a leggere, o inginocchiato davanti a un altare dietro al quale gli appare Nostro Signore con tutti i simboli della sua passione.